Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sclerosi multipla, uno studio pilota di un gruppo di ricercatori delle Università degli Studi di Milano, di Verona e della Fondazione Don Carlo Gnocchi ha dimostrato che una particolare dieta può influenzare positivamente il decorso della malattia. A Obiettivo Salute il professor Mario Clerici, direttore del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti all'Università degli Studi di Milano. Abbiamo seguito un gruppo di 20 pazienti con sclerosi multipla, 10 di essi hanno seguito una dieta a basso contenuto di proteine e di grassi. 10 hanno continuato con la dieta normale. Abbiamo misurato i parametri di infiammazione dopo 12 mesi e l'infiammazione era molto più bassa nei pazienti che avevano seguito la dieta con pochi grassi. Ma soprattutto dopo 2 anni c'era un chiaro beneficio clinico. Infatti c'era un miglioramento della severità di malattia e una diminuzione del numero di attacchi di malattia nei pazienti che avevano seguito la dieta con basso contenuto di proteine. È uno studio pilota, i pazienti erano 20, quindi bisogna senz'altro confermare i dati su una base più ampia, su un numero più vasto di soggetti, però è promettente ed è anche da un punto di vista scientifico affascinante la possibilità di intervenire su una malattia così grave e cronica, non con farmaci ma con una cosa semplice, qual è il controllo della dieta. Se volete saperne di più sulla ricerca, ascoltate l'approfondimento dell'esperto sulle pagine naturalmente di Obiettivo Salute. È buona e super amata. Oggi parliamo di lei, della pasta, e il suo giorno è il World Pasta Day, una festa che si celebra in tutto il mondo con iniziative, promozione ed eventi che esaltano le proprietà di questo prodotto. A Obiettivo Salute la dottoressa Serena Missori, endocrinologa, nutrizionista, autrice del libro La dieta dei biotipi, ci insegna come gustare un piatto di pasta a tutta salute. La pasta è un piatto amato da tutti, soprattutto in Italia, ma va assolutamente consumato con intelligenza negli orari giusti in base alle nostre caratteristiche fisiche. Soprattutto impariamo a cucinarla al dente, perché in questo modo assorbiamo meno carboidrati e così la possono gustare anche le persone che devono perdere peso, anche diabetici. E ricordiamoci sempre di associarla magari a della verdura, perché la verdura ne frena appunto l'assorbimento, soprattutto se amara, in questo modo la possiamo gustare senza danni per la salute. Consigli e segreti per portare a tavolo un piatto di pasta gustoso e salutare sulle pagine di Obiettivo Salute con i consigli e le indicazioni della nostra esperta. Tra poco, come sempre, io vi aspetto in diretta video. Oggi parliamo di inquinamento con Gaetano Settimo dell'Istituto Superiore di Sanità. La programmazione di Radio 24 come sempre continua con Melog, ma io vi aspetto in video e vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata.